le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Arrestato vicino a Milano uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo a Tunisi. Era arrivato su un barcone in febbraio, poi espulso, incertezza su quando sia tornato in Italia. Al voto alla Camera il disegno di legge di riforma della scuola. Ora anche la CGIL non esclude lo sciopero degli scrutini dopo la proclamazione da parte dei COBAS. Non è previsto però il blocco, fa sapere il garante. Qualche segnale positivo per il 2015 dal rapporto annuale dell'Istat, ma i senza lavoro sono ancora 7 milioni e i rischi arrivano dall'assenza di politiche per il Sud. Abbiamo fatto il massimo possibile, dice il ministro dell'economia Padoan a Mix 24 parlando di pensioni. Cantiere aperto sulla revisione della Fornero per un'uscita flessibile dal mondo del lavoro. Arrestati due hacker, avevano violato il sito dell'Expo e quello del Ministero della Difesa e avevano annunciato la pubblicazione di documenti classificati. Calcio scommesse, ora basta con personaggi discutibili, dice Renzi. Tavecchio, ripuliremo il calcio dai delinquenti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. Iniziamo dall'operazione antiterrorismo di questa mattina e con tutti gli aggiornamenti da Livia Zancaner. Buongiorno Livia. Sì, buongiorno Simone. Twil Abdel Majid, ricercato dalle autorità tunisine per l'attentato terroristico al Museo del Bardo il 18 marzo scorso, è stato arrestato ieri sera nel milanese. L'operazione condotta da Ross e Digos è partita dopo la segnalazione dei servizi di intelligence, ma il 22enne marocchino era già stato identificato in Italia un mese prima della strage di Tunisi, in cui, ricordiamo, morirono 24 persone, tra cui 4 italiani. Abdel Majid era arrivato infatti a Porto Empedocle il 17 febbraio su un barcone con altri 90 immigrati e aveva ricevuto dal questore di Agrigento un provvedimento di espulsione. Da quel momento in poi le informazioni non sono chiare. Il nordafricano sarebbe tornato nel proprio paese. Le autorità lo accusano di aver preparato e partecipato alla strage del Bardo del 18 marzo, poi il rientro in Italia, non si sa ancora con quali mezzi, e l'arresto a casa della sua famiglia. Ora Abdel Majid si trova a San Vittore, ma sentiamo la ricostruzione del capo della Digos di Milano, Bruno Megale, questa mattina in conferenza stampa. Inizialmente avevamo individuato, si è partiti da Legnano, poi si è arrivati a circoscrivere le ricerche nel comune di Gaggiano, dove c'era residente la madre e altri due fratelli e altri due fratelli del Twil. Una serie di attività investigative hanno portato a individuare l'appartamento e nei pressi dell'appartamento, dopo prolungati servizi di appostamento, nella giornata di ieri sera è stato individuato e tratto in arresto il Twil Abdel Majid, che precedentemente per noi non era noto, se non che era stato identificato un mese prima a Porto Empedocle nel febbraio del 2015 e munito di un provvedimento di espulsione da parte del questore di Agrigento. Subito quindi è scoppiata la polemica. Oggi nella mia Milano è stato fermato un nordafricano coinvolto nella strage di Tunisi. I governi chiudano le frontiere prima che sia troppo tardi. Questo è l'appello di Matteo Salvini. E per ora è tutto, a te Simone. Grazie Livia Zancaner. Come avete sentito, dunque, sono molti i punti da chiarire, soprattutto nel periodo che è trascorso tra il momento nel quale è arrivato il provvedimento di espulsione per questo cittadino tunisino e il momento nel quale è avvenuto l'attentato e poi come quest'uomo sia tornato in Italia. Ci arriveremo e ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Passiamo alla politica, che ci parla soprattutto del disegno di legge sulla scuola che oggi arriva alla sua approvazione alla Camera. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, il disegno di legge sulla scuola, le battute finali qui alla Camera. Sta parlando Silvia Chimenti del Movimento 5 Stelle. Il voto è previsto quindi tra poco, ma intanto qui davanti a Montecitorio c'è ancora protesta. Non ci sarà però il blocco degli scrutini, perché l'autorità di garanzia informa che Unicobas, Cobas e USB hanno proclamato 2 giorni di sciopero da effettuarsi successivamente alla chiusura delle scuole e che quindi saranno garantiti gli esami per i cicli finali del percorso scolastico. In merito agli scrutini dei invece dei cicli intermedi l'autorità di garanzia deciderà nei prossimi giorni. Questa mattina ancora sulla riforma è intervenuto il Premier Matteo Renzi: siamo disposti a valutare come, ma è importante che ci sia un principio, agli insegnanti bravi vanno dati più soldi. Non voglio un preside burocrate o passacarte, dice Renzi, ma questo non è un preside sceriffo. Il governo stanzierà poi 3 miliardi di euro in più per la scuola, ad annunciarlo il ministro Stefania Giannini. Protestano i sindacati ma anche le opposizioni per Nichi Vendola Sell, la riforma più di destra che si potesse fare. Per Forza Italia Renzi si è messo davanti alla lavagna per non finirci dietro e la minoranza Dem chiede cambiamenti al Senato. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. L'altro tema all'attenzione politica in queste ore è quello delle pensioni. Questa mattina il ministro dell'economia Piercarlo Padoan è intervenuto a Mix 24, abbiamo fatto il massimo possibile, ha detto tra le altre cose, ha parlato anche di indicizzazione e dei possibili ricorsi, sentiamolo. Io ricordo che innanzitutto ci sono gli arretrati 2012-2013, sì. E poi a partire da adesso e per il futuro l'indicizzazione viene aumentata in misura permanente, quindi ci sono redditi attesi in più per classi di pensionati, questo ci si dimentica di considerare. Ci saranno molti ricorsi. E come li affronterete? Vedremo i ricorsi e naturalmente noi riteniamo che la nostra linea sia quella giusta perché tiene conto degli interessi generali del Paese. Ecco. Così il ministro Padoan Mix 24, intanto l'attenzione si sposta sulla nuova ipotesi di riforma della legge Fornero, quella con la quale si vorrebbe consentire maggiore flessibilità in uscita dal lavoro in cambio di riduzioni dell'assegno. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così archiviata tra molte polemiche la vicenda legata alla sentenza della Consulta. Il governo non nasconde la volontà di mettere mano al complesso mondo della previdenza, in particolare Palazzo Chigi punta ad intervenire sull'età pensionabile introducendo una maggiore flessibilità in uscita, una decisione ha fatto capire però lo stesso Presidente del Consiglio Renzi da prendere con calma, si tratta di un principio di libertà, ripetuto il Premier, che invita però su questo, parole sue, a non fare casini, per questo la materia è comunque rinviata all'autunno e alla legge di stabilità. I tecnici dell'INPS e del Tesoro sono comunque al lavoro con le prime simulazioni per cercare di capire come rendere meno rigida la legge Fornero e quali potrebbero essere i costi per il sistema e per il singolo lavoratore che decidesse di ritirarsi prima dell'età di vecchiaia. E non mancano già le prime polemiche. Per i sindacati va rispettata la volontà del lavoratore. La scelta, spiegano, non deve nascere da eventuali pressioni ad uscire dal mondo del lavoro. Preoccupate molte forze politiche per la tenuta dei conti pubblici. Minori contributi versati e il ragionamento potrebbero mettere in crisi gli assegni delle future generazioni. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Siamo al rapporto annuale dell'Istat che molto parla anche di economia. Ha seguito la presentazione Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, riprende l'occupazione, riprendono consumi e investimenti, migliora la fiducia di famiglie e imprese, segnali timidi ma significativi secondo l'Istat che fotografa un paese ancora in difficoltà ma in lenta uscita dalla crisi. Nel primo trimestre 2015, secondo la stima preliminare, il PIL ha registrato un primo aumento dello 0,3 dopo 5 trimestri di variazioni negative o nulle, una crescita che si rafforzerà nella seconda parte dell'anno, dice il presidente Giorgio Alleva che questa mattina ha presentato il rapporto qui a Montecitorio. Sentiamolo. Ci sono numerosi segnali, evidenze di una chiusura della fase di stagnazione, lunga recessione e in particolare abbiamo molti elementi positivi per quanto riguarda la ripresa degli investimenti che sono il tema fondamentale per avere una forza necessaria per uscire da questa crisi. C'è un clima di fiducia da parte delle imprese e dei consumatori. In questo dato del PIL del primo trimestre crediamo che troverà conferma nei trimestri successivi. Ma nelle 280 pagine del volume emergono anche gli antichi mali del nostro paese, il divario nord-sud che cresce, un mezzogiorno che scrive l'Istat non rientra nell'agenda politica del governo, poi l'emergenza occupazionale soprattutto per i giovani mentre l'occupazione torna a crescere per i lavoratori anziani, aumenta la quota di famiglie dove lavora solo la donna, aumenta anche il part time ma in due casi su tre è involontario, irregolare un lavoratore su 10, infine cresce la fuga dei cervelli, quella che l'Istat preferisce definire mobilità intellettuale. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Torniamo alla cronaca. Sono stati arrestati degli hacker, avevano violato tra gli altri i server del Ministero della Difesa. Avevano violato il sito del Ministero della Difesa, sottraendo dati sensibili e informazioni classificate, ma sono stati arrestati e denunciati. Un gruppo di 5 hacker italiani è stato smantellato dalla Polizia Postale. Ivano Gabrielli, responsabile del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, ci ha spiegato le intenzioni del gruppo. L'ultimo leak riguardante materiale della difesa preannunciava, veniva presentato con il lancio di una campagna, e quindi per quello che è il modus operandi che abbiamo riscontrato era probabile la prossima pubblicazione di materiale riservato, di dati sensibili provenienti da quell'ambito. Attaccati in passato anche il sito della Presidenza del Consiglio, quello del Ministero dell'Interno e della Polizia, di cui erano stati pubblicati documenti sottratti. Pochi giorni fa è stato anche sabotato il servizio di vendita di biglietti online di Expo. Nell'operazione Unmask sono stati arrestati un 31enne di Livorno, conosciuto in rete come Aiken, e un 27enne della provincia di Esondrio, che aveva usato la parola Otherwise come username. Denunce e sequestro di materiale anche a Torino e Pisa. La polizia ha arrestato in flagranza i due pirati informatici grazie ad un infiltrato nel gruppo. Gabrielli ci ha descritto come ha lavorato la sua squadra. L'operazione ovviamente molto molto complessa, ci hanno permesso di sorprendere in attività gli hacker, cioè abbiamo aspettato il momento in cui tramite la nostra attività sotto copertura avevamo contezza che i due fossero con i computer accesi e che quindi stessero dialogando in chat per poterli sorprendere. I 5 hacker appartenevano ad Anon Italy, uno dei canali più importanti dell'attivismo italiano online. Il gruppo utilizzava gli account Twitter @OperationItaly e @OpGreenRights. Enrico Forzinetti, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo all'estero ora, mentre da questo lato del mondo l'Europa sta discutendo il sistema delle quote di profughi per paese. Come sapete, tra mille polemiche dall'altra parte del mondo stanno avvenendo fatti simili. Un vero e proprio esodo sta riguardando una minoranza birmana. Migliaia di profughi ammassati gli uni sugli altri, adolescenti e bambini agonizzanti per la sete e la fame, accatastati come carcasse di pesci sul fondo di un fatiscente barcone. Sono profughi, ma no, non è la Libia. No, non si tratta del Mediterraneo e non sono diretti a Lampedusa. Questa è un'altra storia di immigrazione, perché il Mediterraneo è solo una goccia di un grande oceano di popoli che si spostano, che tentano la fuga da fame o da persecuzioni. Siamo nel mare delle isole Andamane, davanti a Indonesia e Malaysia. Da settimane qui sono alla deriva diverse imbarcazioni stipate di persone in partenza da Myanmar e Bangladesh. Le navi, abbandonate dai trafficanti di uomini, sono alla deriva. I migranti non bevono e non mangiano da giorni. Da 2 mesi si sta giocando un tragico ping pong tra Myanmar, Thailandia, Malaysia e Indonesia. Stamattina la svolta. L'Indonesia e la Malaysia hanno raggiunto un accordo per ospitare temporaneamente questi migranti. L'annuncio è arrivato dal ministro degli esteri malese Hanifa Amman. Gran parte di questi profughi appartiene alla minoranza musulmana dei Rohingya, perseguitati dal governo birmano e dai fondamentalisti buddisti. Secondo le Nazioni Unite sono tra i popoli più perseguitati al mondo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vicenda del calcio scommesse. La giornata di oggi ci racconta di uno scavo nelle carte e tira fuori anche delle belle storie, come quella del capitano della Pro Patria, Matteo Serafini, che da quel che si apprende nelle intercettazioni si oppose alle presunte combine, oppose un netto rifiuto e mosse un atto d'accusa nei confronti dei compagni di squadra. Tutto questo è contenuto in una conversazione intercettata tra Mauro Ulizio, il gestore di fatto della squadra, e il direttore sportivo della Pro Patria, Fabio Tricarico. Tricarico rispose a Serafini di sfidare a duello i colleghi che stava accusando. E poi ci sono le dichiarazioni di questa giornata, quelle del presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale ha detto, come già vi accennavamo nei titoli, che basta con i personaggi discutibili, e poi quelle del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Tavecchio, che dice: ripuleremo il calcio dai delinquenti e dai manegioni. Il calcio è la parte lesa di questi scandali, la giustizia sportiva farà il suo corso presto e bene, aggiunto Tavecchio, serve chiarezza. Anche di questo andremo a parlare ovviamente in Tutti Convocati. Veniamo al cinema. Ho perso i migliori anni della mia vita. Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate, ma è una vera stronzata. Le emozioni. Quello che sentite è il trailer di Youth, della giovinezza, il nuovo film di Paolo Sorrentino, che è stato presentato questa mattina alla 68esima edizione del Festival di Cannes, a 2 anni esatti dalla grande bellezza. Lunghi applausi, ma c'è stato anche qualche dissenso. Insomma, qualcuno non è piaciuto. Il film è un affresco sulla vecchiaia, con un cast internazionale, da Michael Caine a Rachel Weisz. Un film ottimista per esorcizzare le paure, ha detto il regista durante la conferenza stampa. Vedremo come andrà. Domenica sapremo chi vincerà la Palma d'Oro a Cannes. Tra un attimo torniamo a parlare della nostra notizia di apertura, ossia l'uomo arrestato per essere uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo a Tunisi, ma prima il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stato arrestato vicino a Milano uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo a Tunisi, era arrivato su un barcone in febbraio e poi espulso. Vota la Camera il disegno di legge di riforma della scuola, ora anche la CGIL non esclude lo sciopero degli scrutini. Qualche segnale positivo per il 2015 dal rapporto annuale dell'Istat, ma senza lavoro sono ancora 7 milioni. Abbiamo fatto il massimo possibile, dice il ministro dell'economia Padoan a Mix24, parlando di pensioni. Torna da noi Giuseppe Esposito, che è vicepresidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza. Buongiorno Esposito e benvenuto. Anzi, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Bentornato. Con lei vogliamo parlare di questa vicenda, di questo arresto di questa mattina di un cittadino marocchino accusato appunto di aver partecipato alla strage del Museo del Bardo a Tunisi avvenuta in marzo e che, come abbiamo già raccontato nei titoli, era arrivato in realtà già in Italia in febbraio, sbarcato a Porto Empedocle. Dunque, prima di parlare con lei, la nostra Raffaella Calandra ha appena raggiunto Roberto Di Natale, che è il capo, il procuratore capo di Agrigento, che si è tecnicamente occupato di questa persona quando è arrivata in Italia. Sentiamo cosa le ha detto. Quest'uomo era stato identificato a Porto Empedocle, quindi in qualche modo territorio di Agrigento, giusto? Sì, perfetto, perfetto. Ecco, dopodiché aveva ricevuto un ordine di espulsione da parte del questore di Agrigento. Perché era irregolare, sì. Gli si dice te ne devi andare via dall'Italia, te ne vai, non te ne vai, rimani qui. O d'altro, purtroppo, sono cose che non si riescono ad individuare. Dopodiché sarà rientrato in Italia. Se non è stato identificato e quindi se è sfuggito ai controlli, e quello purtroppo non c'era modo, diciamo. Non c'era modo. Se fosse stato identificato attraverso le rituali, impronte digitali, per dirla in maniera chiara, si sarebbe dovuto raffrontare questa impronta digitale di questo soggetto che rientrava in Italia con le impronte digitali a suo tempo, quando era a febbraio, prese allorché era sbarcato per la prima volta. Però considerando la gran quantità di persone che sbarcano in Italia, quante volte vi si confrontano le impronte digitali con le banche dati? Questo non lo so, tenuto conto che abbiamo migliaia e migliaia di sbarchi mensili, ovviamente spesso probabilmente non avviene. Qual è il punto debole di questo tipo di procedura? Il controllo delle impronte digitali attraverso i sistemi informatici che abbiamo. Io devo sapere se è entrato che sta entrando ora, è già entrato un'altra volta, è stato già destinatario del provvedimento di espulsione. Dovrei saperlo in tempi reali. La solitudine in cui ha lasciato l'Italia la rende anche più vulnerabile rispetto all'arrivo, certo, di personaggi sospetti? Certamente. Probabilmente l'Europa non comprende che siamo soli, arrivano qui, ma poi in qualche modo riescono anche a fuggire, a raggiungere le varie altre nazioni, quindi sarebbe opportuno una migliore collaborazione. Senatore Esposito, mi sembra evidente che c'è qualcosa che non ha funzionato. Ma io, guardi, proprio qualche giorno fa dicevo e ho detto pubblicamente che noi facciamo i controlli all'arrivo dei barconi, e non solo da soli, ma anche dai paesi dove partono. Insieme con noi ci sono i servizi di intelligence di mezza Europa, e non solo Europa, anche dello stesso Medio Oriente e del Nord Africa, che stanno sul terrorismo, stanno facendo una battaglia comune insieme per evitare eventuali trasferimenti terroristi a livello, diciamo, del Mediterraneo. Noi abbiamo dimostrato ed è dimostrato dai fatti sia nel febbraio che quando c'è un avviso in tal senso si viene preso e fatta l'espulsione all'eventuale immigrato tendenzialmente terrorista o attenzionato, perché va ricordato che per il TUIL solo stanotte è arrivato il mandato di arresto internazionale, fino a ieri ciò non c'era. Va ricordato inoltre, perché l'ha ricordato anche Luigi Savina, il questore di Milano, che l'operazione dell'arresto nasce da una collaborazione con i servizi di intelligence dell'antiterrorismo di tutto il Mediterraneo, e quindi questo ancora a garantire la sicurezza degli italiani e la sicurezza degli spostamenti per quello che è possibile, ma diciamo oggi è abbastanza alto la nostra allerta a difendere la sicurezza degli italiani. Senta, senatore, lei è tra le persone che ha attaccato molto duramente la Lega, in particolare Matteo Salvini, quando ha lanciato questo allarme sul rischio che i terroristi arrivino con i barconi, se non sbaglio l'ha definita addirittura salvinate. Si sente di arretrare un po' rispetto a questo dopo quello che abbiamo visto oggi? Assolutamente, guardi, assolutamente no. Per un semplice motivo, perché noi abbiamo avuto sentore che ci fosse un eventuale terrorista ed è stato rimandato indietro, allora non era ancora terrorista. Oggi abbiamo avuto notizie in questi giorni di una possibilità che sul territorio nazionale ci fosse uno legato ad un attentato bruttissimo come quello di Bardo, e in 24 ore la nostra polizia e i nostri sistemi di intelligence lo hanno arrestato, identificato e arrestato. Quindi sta a significare che noi stiamo attenti, non dobbiamo mettere allarme, dobbiamo cercare di analizzare momento per momento gli allarmi che arrivano. Per fare questo non c'è bisogno di aprire cortine fumogene che possono portare anche gli investigatori a fare degli errori di sottovalutazione. Allora, senatore, io questo lo capisco, dall'altra parte però dico... ha ragione lei quando dice abbiamo scoperto solo dopo che era un terrorista. È vero che dall'altra parte il rischio è che arrivino degli elementi, per così dire, radicalizzati, cioè che non sono ancora dei terroristi ma che lo possono diventare. Guardi, ha perfettamente ragione, proprio perché chi è in odore di terrorismo li rimandiamo indietro come indesiderati dal paese, cosa che è successa a febbraio nel caso di Tuil. Però guardi, io vorrei dire anche, noi ci stiamo preoccupando molto dei barconi ed è ragionevolmente questo, la preoccupazione deve essere alta, ma attenzione che dai Balcani passano 6 volte lo stesso numero che arrivano in Europa e in Italia. Ora noi dovremo stare attento anche alla frontiera dell'est, alla frontiera dell'Austria, alla frontiera di Trieste, cioè, perché lì c'è una vera e propria autostrada, io l'ho definita l'autostrada della Jihad da questo punto di vista, perché attraverso i Balcani c'è la grande radicalizzazione di tutta la parte più o meno occidentale. Quindi lei dice il vero rischio arriva da terra, insomma. No, il vero rischio, io sempre faccio una battuta, me la lasci passare adesso a mezzo radio, e io dico spesso, dico che arrivano con gli aerei in business class solitamente i terroristi, perché vivono al di sopra del sistema, non perdono 20 giorni su una barca in un centro di accoglienza, con il fatto che possono essere scelti, che possono essere trovati, possono essere rimandati a casa. Hanno altri sistemi che chiaramente chi fa questo mestiere conosce, e quindi l'allarme e le preoccupazioni sono su più campi. Mi scusi senatore, è chiaro, l'ultima domanda che le voglio fare, a me il problema sembra però non il fatto che questo sia stato identificato ed espulso o quantomeno oggetto di un provvedimento di espulsione, perché poi non sappiamo effettivamente quando abbia lasciato il nostro territorio, per me il problema è che questo sia tornato sul nostro territorio. E il problema è, adesso le faccio una domanda, io non lo so, faccio una domanda a lei, Ma sappiamo se è tornato con le barche? No, questo non lo sappiamo. Bene, effettivamente. Aspettiamo gli inquirenti, vediamo queste cose. Noi, per esempio, la prima cosa che abbiamo visto è che i nostri servizi di intelligence sapevano esattamente dove, quando e come stava circolando in Italia, ed è per questo motivo è stato anche bloccato velocissimamente in un posto senza come dire colpo ferire da questo punto di vista. La ringrazio, grazie al senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente del Copasir. Un breve aggiornamento dalla Camera con Vincenzo Miglietta sul disegno di legge sulla scuola. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. E la Camera, Simone, ha approvato pochissimi istanti fa il DDL Buona Scuola con 316 voti favorevoli, 137 contrari e un solo astenuto. Il testo, lo ricordiamo, passa ora al Senato, e collegandomi velocemente al tuo argomento che hai chiuso pochi istanti fa, si è subito aperto qui alla Camera proprio il dibattito su come sia possibile la presenza in Italia del marocchino legato alla strage di Tunisi. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e seguiremo evoluzioni anche su questo. Continuiamo in qualche modo a parlare di intelligence, perché ci vogliamo occupare dell'operazione di questa mattina che ha portato in manette due hacker che avrebbero violato, tra l'altro, un sito collegato al Ministero della Difesa, accedendo a documenti classificati. Ne vogliamo parlare con Luisa Franchina, che è ingegnere, specialista in infrastrutture critiche e protezione dati nell'intelligence, e insegna master in sicurezza economica, geopolitica e intelligence alla CIO, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Ingegnere Franchina, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ma sono così fragili le difese elettroniche di un ministero importante come il nostro Ministero della Difesa? Possono essere fragili, e non solo quelle, anche quelle delle nostre infrastrutture critiche, ed è lì che noi dobbiamo agire in modo predittivo, cioè cercando di evitare prima questi episodi piuttosto che dovendo poi reagire. Più in generale le voglio chiedere, insomma, le sembra che l'attrezzatura per la difesa da eventuali attacchi hacker delle nostre infrastrutture critiche da un punto di vista informatico sia adeguata oppure no? Il governo ha fatto tanto, e ci sono norme e c'è tutta un'architettura della pubblica amministrazione per prepararsi a questi eventi e per reagire. E quindi già l'Italia si sta adeguando agli standard internazionali. Comunque è un campo difficile nel quale noi dobbiamo essere costantemente allerta. Un campo, dice, nel quale dobbiamo essere costantemente allerta. E le ripeto, gli strumenti ce l'abbiamo oppure no? Al di là di come ci si sta muovendo in questo momento? Li abbiamo tutti. È chiaro che servono molti investimenti, e sono investimenti che non danno un ritorno immediato in termini economici, danno una riduzione delle perdite. E dal punto di vista, ultima domanda che le faccio, degli uomini, della capacità delle nostre risorse umane di stare dietro a rischi di questo genere? Siamo assolutamente preparati, abbiamo tra i migliori ingegneri e informatici che esistono al mondo, e siamo richiesti dappertutto. Lavoriamo con tutti, e quindi abbiamo tutte le potenzialità per difenderci e anche per essere bravi. La ringrazio, grazie all'ingegnere Luisa Franchina, specialista in infrastrutture critiche e protezione dati nell'intelligence, che insegna al Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence di CIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Noi ci fermiamo, ci sarà la borsa, poi ci ritroviamo subito dopo, e vogliamo parlare di quest'ordinanza partita dal Comune di Roma che vieta di fumare nei parchi e nelle ville storiche per tutta l'estate, e vogliamo anche cercare di capire com'è che si controlla tutto questo vista l'estensione del verde di Roma. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La riforma della scuola passa l'esame della Camera, via libera, adesso andrà al Senato, anche la CGIL non esclude lo sciopero degli scrutini. Arrestato vicino a Milano uno dei presunti attentatori del Museo del Bardo a Tunisi, era arrivato su un barcone in febbraio e poi espulso e poi tornato in Italia. Anche il segnale positivo per il 2015 dal rapporto annuale dell'Istat, ma i senza lavoro sono ancora 7 milioni. Abbiamo fatto il massimo possibile, dice il ministro dell'economia Padoan a Mix 24 parlando di pensioni. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Buongiorno Marcello Presilla. Buongiorno a voi. Marcello Presilla è un avvocato ed è responsabile in Italia, un rappresentante in Italia di Sportradar. Sportradar che cos'è? Ve ne abbiamo parlato ieri. È una società svizzera, un'azienda che si occupa di fatto di tenere sotto controllo non solo per la Lega Pro, che è stata in parte l'iniziatrice di tutto questo, ma anche per la stessa UEFA, quindi per di fatto tutti i campionati, tenere sotto controllo le partite, per così dire, sospette, cioè quelle che potrebbero essere oggetto di una combine, analizzando, immagino, Presilla, i dati sulle scommesse, cioè su questo che vengono fatte le valutazioni. Ci saranno degli algoritmi che calcolano tutto questo, no? Sì, esattamente. Sportradar è la multinazionale che da anni lavora al servizio dello sport in senso generale, in particolare del calcio. Siamo il monitoring system della UEFA da diverse stagioni, controlliamo esattamente tutte le partite dei campionati di Serie A e di Serie B dei 54 paesi, UEFA, Europa League, Champions League incluse. Okay. In Italia monitoriamo anche il calcio a 5 e i campionati e la Coppa Italia di Lega Pro. Il monitoraggio... Prego, prego. Sì, il monitoraggio, spiegavo in cosa consiste esattamente. Vengono seguite innanzitutto tutte le partite, sì. Non c'è a priori una scelta tra match sospetti, sì, o meno. Tutte le partite vengono analizzate dal punto di vista dei flussi di scommesse che, sì, si fanno a livello mondiale. Ora, dovete sapere, immagino molti già lo sapranno, che la propensione alle scommesse nel mondo è altissima. I campionati europei, soprattutto i campionati, sì, italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, ricevono una grande quantità di scommesse da ogni parte del mondo, ovviamente la gran parte delle quali sono ovviamente testimonianza dell'interesse, e una parte, come stiamo vedendo anche questi giorni, sì, conferma invece fenomeni di connessione. Quello che voglio capire da voi è se avete rilevato flussi anomali nei casi dei quali si sta parlando in queste ore. Sono una trentina di partite complessivamente. Sportradar ha nei mesi scorsi svolto un'attività particolarmente intensa. Tutto quanto è stato osservato è stato indirizzato attraverso una reportistica molto ben dettagliata alla Lega Pro, e quindi dalla Lega Pro alla Procura Federale, all'UIS e il GIS, che sono gli organismi per conto del Viminale che sono preposti a tale attività, che coinvolgono anche i monopoli di Stato. Io non posso entrare per ovvie ragioni di riservatezza sui dettagli. Posso confermare che però Sportradar ha svolto una attività di monitoraggio intensa e ha relazionato e ha riportato dettagliatamente. Quindi le segnalazioni ci sono state? Beh, diciamo che c'è stato tanto lavoro da fare, e che insomma alcuni dati sono emersi con chiarezza e sono stati riportati. Mettiamola da un altro lato, che forse vi piace di più e viola di meno la riservatezza delle indagini. Il meccanismo ha funzionato? Il meccanismo di controllo? Sì. Ma io direi di sì, nel senso che oggi abbiamo anche la prova e l'evidenza. Poi non esiste, mi perdoni, un unico meccanismo di controllo, certo. Non esiste un'unica. Il male è così ampio che non ci può essere un solo strumento per aggredirlo. È un cancro, come è stato detto, che va rimosso, e bisogna farlo insieme, con buon coordinamento, utilizzando tutti gli strumenti. Presilla, la devo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. La ringrazio, Marcello Presilla. Grazie. Di Sportradar. Magari torneremo a parlare con lei quando le cose saranno un po' più chiare. E saluto Maurizio Pucci, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione urbana, protezione civile, progetti speciali. Mamma mia, quanti! È il Comune di Roma. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei. Quante deleghe, ci rende il lavoro difficile, soprattutto quando siamo di tempi stretti. Senta, volevamo fare una domanda su quest'ordinanza che prevede che non si possa fumare nei parchi, nelle ville storiche di Roma per tutta l'estate. Sì, bene, meno male. Meno male che la stampa e le televisioni si siano accorte di un'ordinanza che in verità ormai 10 anni è esattamente uguale a se stessa. Da 10 anni addirittura? Sì, esattamente, nel senso che queste ordinanze che sono assolutamente identiche a quelle che sono state prodotte, che le posso dire, ma identiche anche con le virgole, sì, dal 2011 fino al 2015, ma assolutamente identiche. Io ho fatto il responsabile della protezione civile per alcuni anni della regione Lazio e le posso serenamente dire che queste questioni, ovviamente quelle degli incendi, che sono uno dei flagelli più devastanti per questo paese, hanno sempre avuto, se non in caso di incendio ormai avvenuto, una attenzione da parte del mass media non sufficiente, soprattutto nella fase preventiva. Sì. Che questo fatto, che in verità era sempre stato scritto, sia stato evidenziato, questo non può che far piacere, perché vuol dire che così tutti abbiamo una sensibilità e almeno tutti lo sanno. Abbiamo veramente 20 secondi, Pucci, mi spiega una cosa. Con l'estensione delle aree verdi di Roma tra parchi e ville storiche, ma come si fa a controllare che qualcuno non fumi? Ma non si tratta di controllare qualcuno che fumi o che non fumi, si tratta di dare delle prescrizioni rispetto al fatto che chi fuma, e lo può fare, non getti la sigaretta dentro le stoppie, dentro. Quindi non è proibito fumare in realtà. Si tratta perché è impossibile, pare evidente. Sì. Si tratta di utilizzare qualunque strumento che dia fuoco, sì, in modo assolutamente oculato. Con alcune prescrizioni che vietino, che vengono vietate, non si possono certamente fare dei braccieri, certo, piuttosto che, mi pare evidente. Ovvio. Questo in verità dovrebbe fare però, tutto l'anno, insomma, semplicemente vuol dire ai cittadini prestate attenzione. La ringrazio, grazie a Maurizio Pucci, assessore, le avrei dedicato più tempo, ma dobbiamo veramente chiudere, se no mi ammazzano, traffico.